Salve ragazzi e ragazze, ascoltatori vicini e lontani, io sono il vostro caro Dave, il vostro critico televisivo e cinematografico improvvisato e amatoriale preferito, anche perché probabilmente sono l'unico. Vi do il benvenuto in questo nuovo podcast in cui discorreremo, dopo tanto tempo, dopo il flop colossale del Trono di Spade, di cui abbiamo parlato diffusamente, in cui abbiamo fatto tante battute, tante freddure e ci siamo avvelenati l'anima per il tracollo della serie che già non era un tripudio di qualità, adesso ci troveremo a parlare di un'altra serie che non promette nulla di buono. I prodromi non sono dei migliori. Di che cosa sto parlando? Beh, sto parlando dello spin-off, ambientato in America nel 1938, della celeberrima e molto amata serie, nonostante l'epilogo, la terza stagione molto scadente, la serie inglese Penny Dreadful. Esatto ragazzi, è uscito uno spin-off che si chiama, scusate i click, ma sto riaprendo i file Word, li sto affiancando per leggere tutti gli appunti che ho preso. La serie si chiama Penny Dreadful City of Angels e, come il nome suggerisce, è ambientato a Los Angeles. Fin qui ci siamo. Allora, ho visto il primo episodio e devo dire che sono rimasto molto molto deluso. Non vi spoilerò subito la mia reazione di grande delusione. Ho delle motivazioni serie, non è un odio a prescindere, anche perché l'attrice principale è Natalie Dormer, l'amore della mia vita, quindi ovviamente sono di parte, ed effettivamente lei fa una discreta figura, nel senso è l'unica nota positiva, nel senso, ma non è neanche colpa degli attori, è proprio il plot che per il momento è molto molto pigro. È molto pigro, è molto poco ispirato, e anche tecnicamente ci sono delle cose molto cheap, scusatemi se uso questi termini inglesi, ma quando si parla nell'ambito settoriale, appunto della cinematografia, della scrittura televisiva cinematografica, ho delle reminiscenze di studio e mi vengono i termini che ho appreso leggendo i libri, tra cui quelli di Walter Murch in un batter d'occhio, che è il libro del montatore di Francis Ford Coppola, relativo ad Apocalypse Now, ad esempio a tutte le tecniche di montaggio, ma ne cito solo uno perché comunque ci sono tantissimi libri di testo universitari americani che ho avuto il piacere di leggere, chiaramente tradotti, ma comunque molte strutture lessicali vengono lasciate intatte perché nel gergo cinematografico ci si riferisce a certi fenomeni, a certe procedure con il termine inglese, no? Quindi chiedo perdono se farò dei calchi e userò dei termini in lingua inglese, non sono un esterofilo, però quindi capitemi se faccio qualche scivolone. Allora, perché dico che è una serie molto deludente? Per dirvelo, per spiegarvelo, per farvelo intendere, capire e assimilare, devo fare un excursus abbastanza lungo. Sono una persona prolissa, quindi preparatevi ad essere ammorbati per le prossime 6-7 ore. No, scherzo, normalmente quelli del Trono di Spade durano 50 minuti di episodio, qui c'è molto di meno da dire, anche perché come primo episodio è difficile trarre un giudizio definitivo. Però i presupposti sono sbagliati. Allora, che cos'è un Penny Dreadful? O che cos'erano i Penny Dreadful? Per dirla in maniera grammaticalmente più appropriata. Erano una pubblicazione di scarso livello, nata nella seconda metà del 1800 fino agli inizi del 1900, nel Regno Unito, e si trattava di racconti fantastici o orrorifici, stampati anche su carta di qualità bassa, indirizzati a un pubblico non propriamente acculturato, erano ritenuti una forma di intrattenimento per il volgo, diciamo così, e erano dei racconti appunto incentrati su vampiri, mostri, omicidi, eccetera. C'era questa fascinazione per il gotico e per l'oscuro, no? E generalmente, appunto, venivano etichettati come pubblicazioni di scarso livello, e tant'è che il nome Penny Dreadful indica proprio la scarsa considerazione letteraria di cui godevano. Erano anche chiamati Penny Horrible, Penny Awful, Penny Blood, cioè proprio a testimoniare la natura grottesca, cruenta, orrorifica, e soprattutto la qualità sia di stampa sia narrativa non proprio eccelsa, e soprattutto erano indirizzati alla classe operaia, erano una letteratura molto commerciale. Questo però ha avuto una grande influenza sulla cultura, diciamo, pop, anche perché qualche anno dopo sono nati i racconti di Weird Tales, su cui hanno scritto appunto, sono racconti del fantastico, su cui hanno scritto anche Robert Howard, inventore di Conan, Solomon Kane, Cool di Valusia, se non sbaglio, e anche H.P. Lovecraft. Scusate, mi sono morso la punta della lingua per dire Lovecraft. Allora, praticamente l'influenza, l'eco, la cassa di risonanza di questo fenomeno comunque ha ispirato un tipo di letteratura gotica, un tipo di letteratura orrorifica, che si è protratto nel tempo e che tocca anche i nostri giorni. Se possiamo fare un parallelismo, Quentin Tarantino è un grande amante della letteratura pulp, che è pronipote del Penny Dreadful e nipote dei racconti fantastici di Weird Tales, no? È tutta una reazione a catena, da qualche parte si origina il fenomeno e comunque l'influenza pop va a toccare varie generazioni e vari paesi, è inevitabile, no? La serie televisiva Penny Dreadful, che cosa aveva di particolare? Non erano delle storie autoconclusive, come potrebbe suggerire la struttura dell'opera letteraria minore originale, no. Era una storia che aveva una sua orizzontalità con dei personaggi fantasy orrorifici. Chi c'era? C'era Dorian Gray, dell'omonimo racconto di Oscar Wilde. Poi è molto curioso, non so se nella serie ci sono degli scambi di dialoghi fra due persone, non ve lo dico perché magari non l'avete vista, e spesso si citano poeti e autori contemporanei. Mi chiedo se ci sia qualche easter egg di citazione di Oscar Wilde, che in teoria ha scritto appunto Ritratti di Dorian Gray, e c'è Dorian Gray, non lo so. Forse l'hanno omesso per non creare dei buchi di trama o dei controsensi o sfondamento della quarta parete. Comunque, i personaggi sono appunto questi: c'è Dorian Gray, c'è il dottor Victor von Frankenstein, che viene creato appunto dalla penna di Mary Shelley. Leggenda volle che vennero creati questi racconti per una scommessa. Lei, il marito e James Polidori, che scrissero dei racconti, se non sbaglio erano in un castello in Svizzera, una cosa del genere, si sfidarono a scrivere un racconto. Queste sono reminiscenze, non ricordo, però Polidori scrisse Il Vampiro, poi un altro, mi sfugge il nome dell'altro autore, che scrisse Il Castello di Otranto, e Mary Shelley scrisse Frankenstein. E perché Frankenstein è molto importante e si sposa molto bene con la prima serie di Penny Dreadful? Perché la prima serie di Penny Dreadful è ambientata in una Londra vittoriana della prima rivoluzione industriale, e Frankenstein parla proprio di rivoluzione umana, l'essere umano che si erge a nuova divinità, prende controllo delle forze della natura. C'è il discorso del galvanismo e gli studi appunto sull'elettricità, e c'è di fondo anche questo discorso dell'inglobazione e della paura per il progresso e del tentativo dell'uomo. Infatti il nome di il sottotitolo del racconto Frankenstein, se non sbaglio, è Il Nuovo Prometeo, una cosa del genere. Quindi c'è il discorso della conquista di qualcosa che si sottrae agli dèi, in questo caso l'immortalità, perché Frankenstein è una creatura, creata dal dottor Frankenstein, è un affronto alle leggi della vita, ed è importante in un contesto di rivoluzione industriale, quindi ha molto senso. Dorian Gray, per giusta posizione, è l'immortale edonista senza tempo, anche se i personaggi non interagiscono in maniera reiterata e continuativa nella serie, si incontrano poco, comunque hai questi due poli opposti. Poi chi hai? Hai un personaggio che è un licantropo, che lo scopri molto dopo che è un licantropo. Diciamo che ci sono degli indizi, ma all'inizio l'attenzione non ti si focalizza, no? Hai delle streghe, hai persone, diciamo, cultisti, diciamo, rivolti al satanismo, hai vampiri, e la cosa divertente è che alcuni vampiri sono presi a piene mani da Bram Stoker, che è uno scrittore, appunto, se non sbaglio, irlandese, quindi britannico, ed è, diciamo, uno sfondamento della quarta parete, un easter egg, non lo so, una citazione, però c'è quel tipo di vampiro, ma c'è anche il Nosferatu, che, non so se lo sapete, quando venne fatto il primo film sui vampiri, non riuscirono a prendere i diritti dalla moglie di Bram Stoker, e quindi cambiarono completamente la backstory e l'aspetto di Dracula in quel Nosferatu pelato con le orecchie lunghe e i due dentoni, che ben conosciamo, quell'immagine molto iconica, no? Quindi c'è anche quel tipo, diciamo, ci sono vari riferimenti alle varie culture. Ci sono anche riferimenti alla cultura africana. Il personaggio interpretato da Timothy Dalton ricorda moltissimo Alan Quatermain, che era un personaggio che non so se avete visto, ve lo semplifico perché è un personaggio letterario, però è uno dei personaggi della leggenda degli straordinari gentlemen, la leggenda di uomini straordinari, se non sbaglio l'hanno chiamato in Italia, ma anche egli è un personaggio letterario, sempre di racconti fantastici, sempre di un autore inglese. Quindi tutto sommato c'è un contesto culturale, un contesto storico, un contesto narrativo molto coerente. Poi la terza stagione è stata tremenda, perché è stata molto affrettata, taglio di budget, c'era stata la cancellazione annunciata, e la terza stagione è una chiusura indegna di tutte le premesse. Le storie non vengono chiuse, non ci sono avvenimenti interessanti, viene tutto semplificato in maniera oscena. E è uno dei finali più deludenti di sempre, assieme a Lost, ad esempio. Il Trono di Spade non lo cito perché non è un finale adeguato, è una porcata indegna. Però comunque, parlando dell'eco, della risonanza di un successo che echeggia nelle epoche, Penny Dreadful ha lasciato, per come era iniziato, dei feedback, ha ricevuto dei feedback positivi e ha lasciato un ricordo positivo. Tanta gente ha adorato la serie, anche perché c'erano attori come Josh Hartnett, che all'epoca si è rilanciato proprio con quel ruolo, Eva Green, che è bravissima, e quindi è stato, almeno da quel punto di vista, un bel trampolino di lancio, un bel esperimento che è durato per due stagioni, poi il tracollo. Penny Dreadful, City of Angels, condivide con la serie originale solamente il suffisso, perché di Penny Dreadful non ha niente. Non è... E di questo ne sono certo, perché dopo aver visto la puntata non ho voluto spoilerare niente a me stesso prima di vederla. Ho detto, non vado a guardare la lista degli attori e dei ruoli, non lo voglio fare, perché magari introducono qualche personaggio, io mi rendo conto, che ne so, introducono il professore tizio della Miskatonic University, oh cavolo, è Lovecraft, quindi ho detto, non me lo voglio spoilerare, voglio vedere dove vanno a parare. Anche se City of Angels ho visto qualche trailer e la storia mi ha lasciato molto perplesso, però ho detto, magari quello nel trailer è un antefatto, magari è un fattore scatenante e la storia da lì si dipana. E invece no, hanno optato per la soluzione facile e per una marea soverchiante di cliché. L'attrice principale è Natalie Dormer, che adoro con tutto me stesso, la reputo bravissima e bellissima, e lei il suo lavoro lo fa, lei è brava, cioè nel senso, se dovessi trovare un aspetto positivo alla prima puntata direi Natalie, cioè lei è proprio top. Però se il contesto non va, anche la prestazione attoriale va in secondo piano, per il semplice motivo che non è un racconto appassionante, e vi spiego anche perché. Allora, vi dico non vi faccio come del Trono di Spade, che svisceravo minuto per minuto, scena per scena, cambio di scena, movimento di macchina per movimento di macchina la puntata. Non ne vale neanche la pena. La storia è questa. Brevemente c'è un flashback di un bimbo in un campo con il proprio papà, che era appunto un coltivatore. C'è un incendio e il papà muore. Però che cosa succede? Prima che tutto questo accada, c'è un dialogo fra una donna che è vestita, come sapete, la classica immagine della Santa Muerte, con il velo bianco, quella corona a formare quella sorta di raggi luminosi, no? E una donna completamente vestita di nero, che è appunto Natalie. E questo dialogo praticamente può essere sintetizzato con: io sono cattiva, farò fine del mondo, fai qualcosa. E lei risponde: no, non faccio niente perché non mi occupo di vivi, mi occupo solo dei morti. A che serve questo dialogo? Vabbè, detto ciò, la cosa che mi lascia molto perplesso è che la Santa Muerte, per così dire, fa parte dell'iconografia del folklore ispanico. Perché parlano in inglese? Cioè, tu inizi la puntata con due elementi del folklore ispanico che parlano in inglese. E anche i lavoratori messicani del campo parlano in inglese. Uno direbbe, ok, usciamo dalla coerenza narrativa ed entriamo nel business per far fruire l'opera in maniera omogenea a tutto il pubblico, lo faccio in inglese perché magari tanta gente non vuole vedere, non vuole leggere i sottotitoli. Cioè, sì, d'accordo, ha una logica, ma nel corso della puntata succederanno delle cose che contraddiranno questa logica. Ciò detto, magari l'altra spiegazione è Natalie non sa parlare spagnolo, avrebbe dovuto, visto che è un dialogo non lunghissimo, ma abbastanza lungo, magari Natalie non sa parlare spagnolo, perché l'altra attrice che interpreta la Santa Muerte è messicana di origine, ho controllato su IMDb, lei sa parlare spagnolo. Sarebbe stato carino magari che una parlasse spagnolo e l'altra rispondesse in inglese, come a sottolineare un'ulteriore giustapposizione, perché c'è anche una giustapposizione visiva, perché una vestita di bianco, una vestita di nero, bla bla bla, è molto scontata, una cosa molto ovvia. Non lo so, cioè, a me questa cosa come incipit non mi è piaciuta. Poi, in questa scena, Natalie si aggira tra i campi spargendo fiamme e il papà di questo bambino che abbiamo visto all'inizio muore, e la Santa Muerte raccoglie il corpo in un'immagine che viene definita dai critici d'arte come deposizione cristica. È una scena come la Pietà, ad esempio, è un tipo di immagine che viene ritratta nell'iconografia cristiana centinaia di volte, si chiama proprio così. E tu lì, spettatore, nei primi minuti già sei confuso, perché in questo dialogo i due personaggi sono sulla strada di questo campo e nessuno le nota. Quindi tu, spettatore, dici, ok, non sono visibili, sono creature intangibili, però le vedi camminare, le vedi muoversi e hanno una fisica. Quindi non sono intangibili, sono solo invisibili. E già questa cosa a me dà fastidio, perché è incoerente a livello narrativo. Perché non, nel senso, hai speso una marea di soldi per fare la scena dell'incendio, avresti voluto anche spendere qualche soldo per farmi capire l'incorporeità, non so se è la parola giusta, di queste due persone, perché è una scena che ti lascia un po' confuso e l'inciampo della lingua inglese mi ha dato fastidio. Torniamo alla scena in sé, il bimbo vede il papà tra le fiamme, che tra l'altro il papà in questa scena di deposizione, no? Quindi penso che vedere il proprio papà sospeso in aria, se tu non vedi la Santa Muerte che lo sostiene, cioè tuo papà vestito in aria, le fiamme che si fermano come contro un muro, taglia fuoco, e la Santa Muerte lo spinge via, gli dà una manata tipo Doctor Strange, gli dà questa manata tipo palmo tremante del monaco, lo spara via, e lui guarda questa scena e tu non capisci se lui ha visto veramente l'immagine di questa donna Santa Muerte o è solo, ah ok, c'è stata un'esplosione, mi hanno spinto via. Non è, non lo so, è molto poco chiaro. Anche perché un evento del genere, in un certo senso, ti apre la mente all'occulto, ti fa capire che esiste qualche cosa, e poi non è un bambino di 3 anni, non è un bambino di 5 anni, era un bambino, un preadolescente, diciamo così, quindi non è che ha le visioni mistiche, quindi sarebbe stato un evento. Io lì ho pensato, ah ok, quindi questo personaggio, non dico alla Constantine, ok, però questo personaggio ha avuto, è stato, io ve lo dico, c'è una cosa dopo che mi ha fatto sorridere. Ha detto, questo personaggio è stato toccato dall'occulto, letteralmente. Perché questa manata che gli dà la Santa Muerte gli lascia una cicatrice ustionante sul petto, tipo mano di Saruman. E non lo sapevo, però mi è uscita istintivamente questa espressione, toccato dall'occulto. È una cosa proprio, forse che ho rubato inconsciamente a Constantine, perché più o meno, insomma, me l'ha ricordato. E invece no, perché c'è un flash forward. Si va nel presente della narrazione, 1938, e questo bambino è diventato un agente di polizia che ha appena ricevuto la promozione in detective, che è uno dei primi detective di etnia messicana a Los Angeles, che è una città cosmopolita. Già all'epoca era una città cosmopolita con grandi discriminazioni razziali, e quindi c'è questo background, questo contesto della città in cui l'inserimento di persone di etnia sudamericana è gravoso. E questa è ciò che apprendiamo, questo è ciò che apprendiamo nei primi minuti di narrazione. La famiglia di questo detective qual è? Ha un fratello più piccolo, un fratello più grande che è Eric Decco di CSI, e la mamma che è una bruja, una strega, una donna che pratica la santeria, che in questa serie viene un po' semplificata, un po' ridotta. Che cos'è la Santa Muerte? È l'angelo della morte, tipo Malta di Diablo 3. E quindi lei è questa bruca che non so, per il momento si è visto troppo poco per giudicare l'estensione della sua esperienza, ma c'è una scena che mi ha triggerato tantissimo. E il contesto è che lui e il suo nuovo partner, che è un anziano consumato detective di Los Angeles, che non è un razzista, non è un discriminatore di diverse etnie, lo prende sotto l'ala protettrice e glielo dice: perché mi hai preso? Ah, perché sono l'unico che non ti vuole nessuno, ti ho preso io. Però è una persona molto moderna, una persona, è un detective appunto col pelo sullo stomaco, che sceglie un compagno e non guarda a discorsi razziali, cerca solo un compagno valido e lo sprona e lo tiene, diciamo, tra virgolette, sulla retta via durante... ti fa capire che è una figura quasi paterna, no? Un mentore. Farà una bruttissima fine, secondo me. Però vabbè. Questa è la storia del bambino che evolve e diventa questo detective. Il personaggio di Natalie è probabilmente uno spirito, una creatura, un demone che si oppone a questa figura che tra virgolette dovrebbe essere neutrale, cioè la Santa Muerte. E come si possa opporre alla neutralità io non lo so, sinceramente, perché bene e male si possono opporre, ma una persona neutrale che dice: io non mi occupo di vivi, accolgo solo tra le mie braccia i morenti, che cosa te ne frega di quello che succede al genere umano se tu accogli fra le tue mani i morenti? Non ti occupi, qui volevo arrivare, dei vivi. E quindi è, nel senso, non crei una premessa di lotta fra il bene e il male, è un concetto trito e ritrito, però hanno voluto fare questa immagine iconica del contrasto bianco contro nero, eccetera, però manca il conflitto, nel senso, di base non ci dovrebbe essere conflitto, perché è neutrale questa santa, se è un angelo della morte dovrebbe essere completamente neutrale. Però, vabbè, mie considerazioni personali. Natalie è questo spirito che ha una limitata capacità di mutare forma. Assume la forma di una mamma con un bambino, mamma di origine tedesca, con un bimbo piccolo che va dal pediatra, e questo pediatra è un nazista. Praticamente è un nazista che nel 1938, a quanto pare, erano tollerati negli Stati Uniti, confesso la mia ignoranza, non lo sapevo. E è semplicemente l'esponente di un altro paese, espone la bandiera di questo paese, fa delle manifestazioni pubbliche per incitare gli Stati Uniti a non intromettersi nelle guerre, perché sappiamo che il Reich è stato fondato nel 33, Terzo Reich, quindi nel 38 c'erano già stati dei piani espansionistici della Germania, e incitava appunto i cittadini statunitensi a non intromettersi con dei cortei in un parco, a non intromettersi negli affari del vecchio continente. Qual è il punto di contatto? Tra l'altro, l'attore che fa il pediatra nazista è l'attore che faceva la creatura di Frankenstein nel primo Penny Dreadful. Che bello, un attore che ritorna. Sì, peccato che non c'entra una ceppa di niente con la serie originale, però vabbè. Ok, e poi sarà l'unico, sono andato a spulciarmi su IMDb tutto il cast e c'è solo lui. Ciò detto, il collegamento fra questo personaggio e il detective, che è il detective Vega, con la mascherina e gli artigli come quello di Street Fighter, è che la mamma, la bruca del detective Vega, è la domestica di casa del pediatra. E come fa Natalie a ottenere l'attenzione e a tentare un approccio, tra virgolette, non seducente, perché è stato molto casto, molto puro, ha soltanto finto di essere una madre frustrata, tedesca, con un americano... E il cliché è rimasto da 100 anni a questa parte, l'americano che guarda il baseball e si ubriaca di birra davanti alla radio a questo punto. Quindi è un po' pigra, ragazzi, un po' pigro come stereotipo, diciamo così. Finge appunto di essere una madre maltrattata e che anche il bambino subiva abusi, aveva problemi di asma per natura nervosa, bla bla bla. E quindi cerca l'empatia, cerca la pietà del pediatra nazista. Vabbè. E questo è il primo personaggio che Natalie incarna. Incarna in tutti i sensi, perché si scopre che il bambino, ok, visto che lei è questa entità magica, superiore, demoniaca, oscura, il bambino non è altro che una sua pertinenza che lei genera dal suo corpo e lo riassorbe nel proprio corpo in una scena abbastanza raccapricciante. E quindi capisci che ha un piano per instillare una sorta di... non so se è libido, non so se è odio, non so se deve ispirare qualcosa, potrebbe anche tranquillamente, lo dico adesso, magari non è così, dire ah mio marito è quello, istigare l'odio del pediatra nazista verso il marito sperando che compia un omicidio, non lo so, vado, perché diciamo che la base della serie è che questa creatura vuole scatenare l'odio, vuole scatenare questa profezia, far avverare questa profezia che parla di popoli che si rivoltano contro altri popoli, homo omni lupus, diceva un filosofo, il buon Hobbes. E quindi vuole scatenare questo conflitto che all'alba, diciamo nel 1938, e la presenza dei nazi, come al solito, fa presagire che lei sia fautrice del Reich, della guerra mondiale, quindi evidentemente vince Natalie, più o meno. E diciamo che è lecito pensare che lei sia una creatura che diffonde astio, odio, rancore e malvagità, instillando pensieri negativi nella gente. Lo vedremo anche nel corso della puntata. Un'altra incarnazione di Natalie è la segretaria di un membro del comune, della giunta comunale, non ricordo adesso, di Los Angeles. E questa persona si occupa delle infrastrutture, in particolar modo delle strade, della costruzione di una nuova superstrada, che guarda caso dovrà passare in un quartiere ispanico dove vive la famiglia del detective Vega. D'accordo? E quindi tutto questo connette la storia insieme. Che cosa succede però? Perché il detective Vega entra in contatto con qualcosa di macabro e pseudo-soprannaturale? Il suo primo giorno di lavoro sarebbe dovuto essere il lunedì successivo all'inizio degli eventi, ma la domenica viene chiamato dal collega che gli dice di presentarsi immediatamente perché sono stati trovati dei corpi in uno stato molto particolare, cioè uccisi, il cuore è stato strappato e il volto è stato inciso a ricordare i tratti somatici dei pupazzi del Dia de los Muertos, molto macabri, e c'è una frase in messicano, scusatemi, una frase in spagnolo, ho detto messicano perché poi vi spiego, che fa parte della cultura messicana, c'è una frase in spagnolo che dice voi avete preso i nostri cuori, noi prendiamo i vostri, ok? E questo è riferito appunto, e il dubbio, ho detto messicano perché non appena sottopongono l'origine etnica e macabra del caso al capo della polizia, immediatamente dice, ah, è qualche stronzata messicana, non potevano crepare i messicani, nel senso, sembra una cosa molto brutta, molto razzista da dire, però io da una parte ho interpretato anche, se i messicani si ammazzano fra di loro, è una frase brutta lo stesso, però nel senso, se fosse una faida fra messicani, probabilmente l'opinione pubblica la tratterebbe meno e avremmo meno pressione, però comunque è brutta, lo so che come suona, è una frase brutta, e è un po' ridondante perché sottolinea un'altra volta anche il razzismo intrinseco nel tessuto sociale a tutti i livelli, in tutte le cariche anche amministrative. Questo si conferma appunto perché Natalie, essendo la segretaria di questo politico, di questo personaggio incaricato alla costruzione di infrastrutture pubbliche, lo istiga appunto a, in maniera anche illecita, a fare accordi, appalti in maniera sottobanco, a prendere dei soldi, a continuare appunto lo sprone dicendo che molte di queste comunità di minoranze etniche vivono su territori che hanno un valore economico alto, ma che le loro baracche praticamente diminuiscono, dice proprio baracche, muri e chioschi di tacos, non so neanche se c'erano, però dice insomma questi classici stereotipi da Trump razzisti, occupano dei lotti di terra che potrebbero essere gestiti per creare guadagno e soprattutto sempre di base con appalti truccati e bustarelle, e lo incita appunto a fare, scusate mi è caduta la bottiglia, lo incita a fare questi accordi non propriamente leciti. E tra questi accordi non propriamente leciti che cosa c'è? C'è un incontro con un personaggio un pochino bizzarro, e questo personaggio un pochino bizzarro è un investitore di una ditta straniera che si occupa appunto di costruzione di infrastrutture, che è una ditta tedesca, è una ditta nazista, e lui è un nazista e praticamente sta cercando di infiltrarsi a livello capillare nel sistema, diciamo, comunale, tra virgolette, amministrativo di Los Angeles, che viene definita come una città che il Führer apprezza. New York è un posto sudicio fatto da vecchie tradizioni del vecchio continente, e Los Angeles è il futuro. Cito quasi testualmente, perché è finito da poco l'episodio, quindi la parte finale è un pochino più impressa. Io, chiaramente loro lo metto in un altro ordine, io ve lo metto in ordine un pochino più logico per farvi capire come sono interconnessi tutti i personaggi, no? E che cosa c'è di particolare? Che chiaramente gli abitanti di questo quartiere, che verrà parzialmente demolito per far posto a questa superstrada, sono non solo messicani, ma soprattutto la famiglia del detective Vega. E il fratello più grande, Eric Delco di CSI, è molto infervorato e più volte rimarca in maniera abbastanza pesante che Vega è il suo fratellino Tiago, Santiago, è un detective che ha scelto i porci americani invece che la propria famiglia, e non è propriamente morbido nel fargli capire queste cose. Quindi già lo capisci dove andranno a parare, fondamentalmente. E che cosa succede? Alla vigilia dell'inizio dei lavori, i messicani, appunto, prima c'è stata una riunione con questo personaggio dell'amministrazione comunale che gli ha negato appunto la possibilità di fermare i lavori, e ha confermato la data di inizio dei lavori, e loro organizzano una sorta di sit-in, organizzano una protesta per impedire, un po' come facevano, non so se avete letto La Guida Galattica per autostoppisti, mi sdraio davanti alla ruspa e voi non fate i lavori, una cosa del genere. E chiaramente molto più tragico e non ironico per come va a finire. Però e non c'è Ford Prefect soprattutto. Allora, praticamente il detective Vega vive questo contrasto interiore fra scegliere, fanno i fuochi d'artificio in sottofondo, se sentite rumori non dovreste, però ve lo dico anticipatamente, non vivo a Kabul, sono fuochi artificiali. Allora, il detective Vega è chiuso fra queste due pulsioni, fra la famiglia e il lavoro, e questo genera un litigio col fratello, perché lui vorrebbe che il fratello più piccolo non presenziasse a questa manifestazione, a questo sit-in, perché c'è il rischio che ci sia un'escalation di violenza, dice, non partecipare ti pago una partita di baseball, mentre il fratello più grande fa no, lui deve partecipare, deve venire, deve morire pure lui, diciamo. E quindi c'è questo conflitto tra figure paterne, una legata alle tradizioni e l'altra più razionale, più integrata, che è il detective Tiago Vega. La madre assiste appunto a questo conflitto fratricida, la bruja, e che cosa fa? Si mette a pregare affinché la Santa Muerte intervenga e faccia del bene. Mo, che cazzo c'entra la Santa Muerte, che è l'angelo della morte, che accoglie i caduti fra le braccia, con le ruspe? Cioè, io sta cosa non l'ho capita. Perché tu puoi dire, che ne so, fai morittizio, ammesso che sia una roba del genere, perché non è voodoo, però fai morittizio, così se fermano i lavori, se sai che lui è quello testardo, che comunque magari è vero che morto un corrotto ne arriva un altro, però magari in quel momento, io avevo pensato, ok, fa una cosa tipo malocchio, tipo evoca la Santa Muerte per mietere questo personaggio comunale che vuole a tutti i costi, per guadagni personali, fare quest'opera pubblica con bustarelle e quant'altro. Invece no, chiede l'aiuto di questa Santa Muerte, e la Santa Muerte appare, e la cosa che mi ha triggerato a bestia è che la bruja messicana prega in inglese, e io lì guardo lo schermo e faccio ma perché? Per quale stracazzo di motivo la bruja messicana, che c'ha 60 anni, con 4 figli messicani tutti quanti, col marito messicano eccetera, lei mi prega in inglese, la cazzo di Santa Muerte, scusate la volgarità, però lei è messicana, la Santa Muerte, la santeria, insomma è una tradizione sudamericana, lei prega in inglese, non fa nessuna magia, ripete ossessivamente sta preghiera, appare la Santa Muerte e dice perché mi hai svegliato in inglese. Ma cazzo, cioè, ma perché? Io, è sempre il discorso di meta, cioè nel meta ti dico, l'ha fatto per far fruire meglio l'opera al pubblico, e fino a lì mi ero incazzato relativamente, perché ho detto, cioè, allora, non costa tanto, il dialogo è breve, si scambiano 4 battute, dirle in spagnolo, visto che tutte e due le attrici sono spagnole, scusate, messicane che parlano spagnolo, dirle in spagnolo con 4 righe di sottotitoli, Penso che veramente la soglia dell'attenzione media, anche una scimmia riuscirebbe a leggere 3 righe coi sottotitoli. Le fai grosse, carattere 72, fai una parola ogni secondo, cioè veramente fai come i meme, fai una roba del genere se tu pensi che ci sia un calo della soglia dell'attenzione. Perché ragazzi, è scientificamente provato che leggere troppi sottotitoli, un pubblico con una soglia dell'attenzione bassa si distrae. Però 3 righe, santi Dio, se tu mi devi convincere che la bruca parla con la cazzo di santa muerte, ma me le vuoi mettere in spagnolo? Tre parole si dicono, anche perché, ragazzi, ve lo riassumo io il dialogo. Santa muerte, aiutaci. No, sono neutrale. Ma aiutaci. No, sono neutrale. Ma la profezia. Urla e sparisce. E tu fai... Si poteva dire in spagnolo una cosa fra due personaggi, uno spagnolo e una pseudo divinità, un angelo della morte spagnolo? Si poteva dire in spagnolo? Secondo me sì, secondo me si doveva dire in spagnolo. Ma mi triggero ulteriormente per ciò che sto per dirvi. Dialogo successivo, si passa cronologicamente all'incontro fra la mamma, appunto la bruca, pochi minuti dopo, e il detective Vega. E lei dice: ah, non devi andarci lunedì, bla bla bla, sta succedendo un bordello perché ho visto la santa muerte che mi ha detto la profezia, tu sei stato scelto. Gli apre la canottiera, gli fa vedere il marchio della manata, eccetera. Però cioè, scelto da che? Che lui sia stato privilegiato, perché invece la morte non è stata, l'angel della muerte non è stato neutrale nei suoi confronti, perché si stava gettando tra le fiamme per andare dal papà, l'ha spinto via, quindi l'angel della muerte non è stato neutrale nei suoi confronti, quindi qualcosa c'è, l'avevo già intuito, mi rafforzi questo concetto con questa scena. Però lui non fa niente di particolare, è un personaggio, magari lui è immune alle malie di Natalie, possibile, possibilissimo, però posto in quella maniera non mi dici niente e non mi... è molto generica come cosa, è molto insipida. Scena successiva, e andiamo al finale della puntata, c'è il confronto fra gli agenti di polizia schierati a difesa delle ruspe con Salvini sopra, perché c'era già James Salvini sopra, che era l'antenato di Salvini, sulla ruspa, con la felpina verde e con la maglia degli Stati Uniti, e i dissidenti, le persone che erano anche residenti nel quartiere che è destinato ad essere abbattuto. Non succede niente, il detective Vega a mani alzate si avvicina al fratello e comincia a dire: mi raccomando, comportatevi bene, non fate cazzate, questi sparano, non dategli motivo, e lo dice in spagnolo, e gli rispondono in spagnolo. Quindi, ed il dialogo è considerevolmente più lungo di quello della bruca, quindi, santi Dio, perché questo lo dite in spagnolo e il dialogo fra la bruca e la cazzo di Santa Muerte, l'angel della muerte, non me lo dite in spagnolo e me lo fate in inglese? Perché questi parlano in inglese? Cioè, non è che stai a parlare con il dio del Darjeeling e l'angelo dell'Earl Grey inglese, stai parlando con la bruca e l'angel della muerte, la cazzo di Santa Muerte, perché parlano in inglese? E questo mi ha mandato fuori di testa, cioè proprio, ma perché? Cioè che cosa è? Questa è pigrizia, perché anche se tu mi dici che Natalie non sappia parlare spagnolo, è possibile che due attrici spagnole nate, scusami, di nuovo, due attrici messicane non sappiano parlare spagnolo, è impossibile, quindi quella è proprio una scena, secondo me, scritta male. Torniamo al confronto fra le due parti, Natalie, che secondo me questa scena conferma il fatto che lei sia uno spirito corruttore, passa con questo abito nero che è un po' il suo abito d'ordinanza, praticamente è invisibile agli occhi di tutti quanti e sussurra. C'è un agente spaventato che sta tenendo in mano un fucile a pompa in maniera tremolante e insicura. Lei cerca con gli occhi fra la folla, fissa lo sguardo su questa gente capendo che può essere instillato da forte sentimento di paura, e lo istiga a premere il grilletto. La gente spara e colpisce un dissidente che non sta facendo assolutamente niente, poco alla destra del detective Vega, che si spaventa e va subito in copertura dietro la macchina. Succede una sparatoria, omicidi, scene di lotta urbana molto violenta, e lei poi nota il fratello, Eric Delco di CSI, del detective Vega, che, e per questo dico che magari non è solo paura, ma è uno spirito corruttore che si nutre e fomenta le emozioni, perché non è spaventato il fratello di Vega, è incazzato, quindi lo fomenta, e lui brandisce un revolver che, ve lo dico, c'ha colpi infiniti perché l'ho contato, in spariti tipo 6-7, e non è possibile, il revolver a tamburo c'ha 6 colpi, va bene, prende questo revolver e comincia a sparare agenti, ammazza 4-5 agenti, poi a uno spara, lo ferisce al braccio e già aveva finito i colpi a sto punto, e il detective Vega deve intervenire e spara al fratello. La puntata finisce, non si capisce se ha sparato per uccidere o ha sparato per rallentarlo, però dal modo in cui cade sembra una ferita letale. Tutta questa scena avviene in un fastidiosissimo rallenti, lo slow-mo, come viene chiamato in gergo. E ragazzi, ve lo dice uno che questa cosa un po' la studiate, lo slow-mo è la cosa più pigra e la paraculata più vecchia quando vuoi fare queste scene toccanti. Veramente, lo slow-mo è un cliché tremendo. Cioè, tu per rendere una scena empaticamente, fai lo slow-mo come René Ferretti, sul serio, nel film di Boris, in cui la produzione voleva imporgli di fare il rallenti della scena del Papa che corre sul prato. La stessa cosa fa questo slow-mo veramente fastidioso, veramente. Poi vabbè, ci sono alcune scene in cui il rallenti funziona perché crei quello che potrebbe essere un quadro in movimento, no? Hai questi personaggi con pose dinamiche, no? Immaginatevi, che ne so, un quadro tipo L'ultima cena. Immaginatevi personaggi quasi cristallizzati nel movimento lentissimo, come fosse un frame al secondo. Li vedi tridimensionalmente che si muovono, ma sono comunque bloccati, cristallizzati diciamo, nella mossa cinetica del movimento. Si stanno muovendo, ma in maniera talmente lenta che ti fa, cioè, nel senso, sembra condensato il tempo, no? E questo enfatizza ciò che succede sulla scena. Però lo usano in continuazione. Inizia la puntata con lo slow motion di Natalie che cammina spargendo le fiamme, e l'Angel della Muerte, la Santa Muerte, che sostiene il papà di Vega e lo spinge via in slow motion, e finisce con lo slow motion. Voi potreste dire, magari è una scelta di coerenza iniziare con la ciclicità, una scelta ciclica, iniziare con rallenti e finire con rallenti. Io non lo so se è una scelta ponderata, critica, ma è una scelta pigra. È una cosa pigra, è una figura retorica cinematografica pigra. È una cosa che si fa quando non hai idee. È una roba pigra, ragazzi, perché è come camminare. Ci avete presente quelle scene dei film d'azione quando cammini col fuoco dietro e il piccione bianco che vola? È un cliché. Dai, ragazzi, un conto è Mission Impossible 3 del 1999, che ancora non era così cliché, però già lì era un po' cliché, e dopo è diventato proprio una roba tipo Cool Guys Don't Look at Explosions che ha fatto Andy Samberg. Dai, non è bello, non è una cosa bella. Perché sono deluso? Principalmente, al di là che tecnicamente non mi è sembrata una grande puntata particolarmente ispirata come scrittura, sono deluso perché io da Penny Dreadful mi aspetto un Penny Dreadful. Cioè, ragazzi, io se guardo Penny Dreadful mi aspetto una struttura narrativa che sia conforme al Penny Dreadful. Cioè, che cosa intendo? Il folklore degli Stati Uniti è molto molto ricco, gravido di creature interessanti. Pensiamo al Wendigo, pensiamo al Sasquatch, pensiamo a tutte le leggende sia dei nativi americani, ma sappiamo che il 60% della popolazione americana viene dal nord Europa, è un ceppo molto importante, e poi ci sono ceppi inferiori che sono quelli latinoamericani e quelli di origine appunto mediterranea, italiani, spagnoli, ma gran parte dei colonizzatori degli Stati Uniti erano nord europei, d'accordo? Quindi tutto quel genere di leggende, quel genere di folklore, che è stato anche ripreso da Supernatural, è stato ripreso da Grimm a piene mani, era usufruibile per questa serie. C'erano tantissime creature, ma questa è la scelta pigra. Questa, ragazzi, secondo me sarebbe stata la scelta pigra, ma comunque una scelta da Penny Dreadful. La scelta da Penny Dreadful intelligente sarebbe stata questa. Il Penny Dreadful inglese ve l'ho descritto, il Penny Dreadful americano appunto erano i Weird Tales, i racconti del fantastico, su cui hanno scritto autori fondamentali per lo sviluppo della letteratura fantasy e horror moderna come Robert Howard. Vado sulla pagina perché voglio massacrare le sue opere, che è, io lo so che è l'autore di Solomon Kane. Solomon Kane è un personaggio che ci sarebbe stato benissimo. Se non sbaglio è un personaggio che lui racconta in un ipotetico 1500-1600, cioè un puritano che combatte mostri, demoni, licantropi, vampiri, ok? Era un prototipo, un antenato di Constantine, di Blade, di tutti questi personaggi. È l'ispirazione di tutti gli eroi horror moderni. Solomon Kane, moderno, che va a Los Angeles e trova i mostri della Nuova America, ci poteva stare. E soprattutto il prete protestante, o il prete in generale, fanatico che si scaglia contro le forze del male, può essere un ottimo personaggio da zona grigia, come padre Alexander Anderson in Helsing. Cioè, è un buono, ma tu in realtà tifi per il cattivo, però è un buono fico, cioè che in realtà è un cattivo fico. È un discorso strano, però è un personaggio grigio, a seconda dal punto di vista da cui guardi la serie. E ci poteva stare, sia come antieroe che come eroe. Altri personaggi fichi, tu hai la... Chiaramente il ciclo celtico e i racconti del tipo Conan e Kull di Valusia sono fuori completamente dal range storico narrativo di Penny Dreadful. Non puoi mettere Conan il barbaro, ovviamente, anche per motivi di diritti d'autore, penso, perché credo che qualche casa cinematografica ancora li detenga. Però sulla storia, Howard ha pubblicato centinaia di racconti su Weird Tales e ci sono tantissime storie da cui avresti potuto attingere, a maggior ragione. La cosa bellissima di Penny Dreadful originale erano i dialoghi colti, raffinati, pieni di charme, pieni di interesse, pieni di citazioni estremamente criptiche, colte, oscure, fra i personaggi che erano degli accademici. E chi meglio di Robert Howard ha raccontato, scusatemi, chi meglio di Lovecraft ha raccontato gli accademici, inventandosi la Miskatonic University, inventandosi i ricercatori che sono andati in Antartide a scoprire delle creature... Vabbè, non vi spoilero perché sono i racconti. Il racconto di cui parlo è Alle montagne della follia, ok? Andatevela a leggere. Io di Lovecraft, per fortuna, ho letto tutto. Sono stato benedetto dalla passione per Lovecraft. Ci sono dei personaggi, degli accademici brillanti e soprattutto tormentati. Ed è un po' una furbata andare a riprendere magari un accademico tormentato che non viene creduto da nessuno, che viene tacciato di essere un farabutto, un millantatore, perché è la stessa fama da macellai da quattro soldi del dottor Frankenstein in Penny Dreadful. E andavi a chiudere sempre il discorso ciclico, andavi a riprendere un personaggio con un background simile. E Lovecraft è pieno di questi autori. Altro autore molto interessante, ragazzi, addirittura l'hanno messo in un film, non mi ricordo se era Dal tramonto all'alba o Vampires, non mi ricordo. Ambrose Bierce è un autore americano del 1842, non si sa come è morto, è sparito perché si è unito, se non sbaglio, alla rivoluzione messicana, è sparito, non l'hanno più ritrovato, e lui ha scritto storie di vampiri, di mostri. È stato un cartografo, un topografo, un esperto dell'orrore, del soprannaturale, del fantastico, ha vissuto anche la guerra di secessione, eccetera. E quindi era un personaggio larger than life, cioè un personaggio particolarissimo, stranissimo. Potevi mettere direttamente lui, ok? O qualcuno dei suoi personaggi, ma lui è un personaggio fichissimo, perché come figura di mentore, come figura... È vero che è morto nel 1914, però per la finzione filmica potevi infilarcelo, ok? Magari potevi mettere un figlio, a parte questo, ragazzi, ci sto pensando adesso, potevi giocare sul fatto che Ambrose Bierce è sparito nel 1914 e lo facevi tornare con una sorta di immortale nel 1938. Chi sei? Sono Ambrose Bierce. Ma è impossibile, è sparito nel 1914, dovresti avere 120 anni, bla bla bla, una cosa del genere. Era figo una cosa del genere. Avevano tutte le carte in regola per fare un Penny Dreadful americano vero, per fare un Penny Dreadful americano degno dell'originale. Chiaramente lo stile inglese, l'accento inglese, tutta quanta l'epoca vittoriana è impossibile da replicare, però il discorso della rivoluzione industriale, il discorso del progresso, ce l'hanno infilato con questa cosa cheap dell'autostrada, che veramente l'ha fatta Douglas Adams con La guida galattica per autostoppisti. Ma già è molto cliché sta cosa, è molto cliché, come è molto cliché del fatto dei nazisti che si inseriscono nelle infrastrutture di paesi stranieri per scopi non ancora chiari. Ragazzi, è la trama di due film di Indiana Jones. Ragazzi, Indiana Jones e l'ultima crociata. C'è il professore americano che si schiera con i nazi. Indiana Jones e l'arca perduta. E ci sono i nazi con gente francese, eccetera. I francesi, vabbè, si sa che collaborano con i tedeschi a tutt'oggi. Hanno quest'asse con Francia e Germania. Ma... è vecchio come il cucco, sono escamotage vecchi, è una scrittura pigra, pigrissima, è la scelta del cliché. Perché? Perché al giorno d'oggi tira l'elemento razziale, che secondo me è stato strabusato, perché io non ne posso più, ragazzi, veramente non ne posso più, dell'ennesima trama a sfondo razziale che finisce sempre con la visione politically correct di oggi che si deve sovrapporre con la politica e la visione scorretta del passato, e tu quindi dai il giudizio da uomo evoluto che hai sorpassato il concetto di razza, di etnia e di discriminazione, ma non c'entra un cazzo perché non è storicamente adeguato. Sarebbe stato storicamente adeguato andare a prendere personaggi della Miskatonic Universe, andare a prendere il Necronomico, andare a prendere Solomon Kane, e c'è anche un altro autore che è Clark Ashton Smith, che è un altro autore del 1893, è morto se non sbaglio negli anni 60, e anche egli è un grande amico in vita reale, un amico in real, come si direbbe al giorno d'oggi, di Lovecraft, e hanno fatto delle storie, anche lui ha fatto storie ambientate nell'universo del Necronomicon, di Cthulhu, di Lovecraft. Cosa che tanta gente non sa, anche Robert Howard ha fatto delle storie incentrate sul ciclo di Cthulhu. Ok, quindi fondamentalmente bastava, ci sono tantissimi racconti su delle riviste che vengono chiamate Strange Tales, Weird Tales, Astounding Stories, Wonder Stories, era pieno di materiale da cui attingere per fare un Penny Dreadful americano. Ragazzi, veramente, io se volete vi metto in descrizione il link di Wikipedia su che cosa sono Weird Tales, Strange Tales, Astounding Stories e Wonder Stories. Erano delle raccolte che concettualmente, culturalmente rappresentavano un'evoluzione naturale, una conseguenza dell'influenza pop del Penny Dreadful, e era un terreno fertilissimo per coltivare uno spin-off che fosse appropriato e culturalmente inserito in un contesto conforme a Penny Dreadful. Ma in realtà hanno usato soltanto il network Showtime, ha usato il nome Penny Dreadful per innescare un interesse ingiustificato da parte del pubblico, visto che il cast è completamente diverso, la storia è completamente diversa, l'evoluzione della trama è completamente diversa, lo stile estetico è completamente diverso, perché se andiamo a guardare anche il montaggio non c'entra niente, la palette dei colori non c'entra niente, la saturazione, la fotografia non c'entra niente con Penny Dreadful. Penny Dreadful, anche quando si sposta sul perché c'è una parte di Penny Dreadful nella terza stagione che si sposta negli Stati Uniti, mantiene un tono cupo, sinistro e sepolcrale. Qui non è così, e non è Penny Dreadful perché tradisci il nome stesso della serie, e in nome della coerenza non ci sta. Secondo me, ragazzi, non ci sta. Secondo me questa serie è nata proprio con il piede sbagliato, con l'idea sbagliata e con l'esecuzione sbagliata. Ho detto che non avrei parlato un'ora, ho parlato 52 minuti e 47 secondi. Bomba! Ragazzi, io quando parto non mi fermano neanche a cannonate, sono un narratore, veramente, sono un oratore fantastico, mi sto imbrodando da solo. No, scherzi a parte, no, è per dire che sono un logorroico e parlo a stecca quando qualcosa mi interessa. Detto ciò, mi piacerebbe sapere le vostre considerazioni, le vostre riflessioni, i vostri pensieri su Penny Dreadful, se l'avete visto, se non l'avete visto e volete vederlo, se l'avete visto e volete dar fuoco agli sceneggiatori. Fatemelo sapere nei commenti, non so se ci sarà un seguito a questo rant di un'ora, non so se vorrete ascoltare un seguito a questo rant di un'ora, non so se sarà il caso di far seguire ulteriori episodi a questo mio sfogo, però era per farvi capire, per rendervi partecipi un po' delle mie riflessioni, delle mie conoscenze, delle mie competenze in ambito cinematografico e televisivo. Spero di avervi intrattenuto, spero che la musica in sottofondo sia stata di vostro gradimento, non so quale sceglierò. Non lo metterò nella descrizione l'autore della musica, ovviamente. E vi auguro di continuare a passare un termine di fase 1 di quarantena gradevole. Mi auguro che le vostre giornate siano piacevoli e che magari riusciate a trovare letture e visioni ben più interessanti e lusinghiere di questo sciagurato Penny Dreadful City of Angels. Grazie a tutti, ragazze e ragazzi. Forse ci rivedremo alla prossima.